Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo in un luogo molto particolare. Sapete che ogni volta invito un personaggio, una donna, un uomo che abbia scritto un libro qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Lo scelgo come opinionista ogni volta per commentare i fatti della settimana insieme a voi, ovviamente, che potete chiamare da subito al numero verde 800 24 00 24. E a proposito di libri, qui siamo proprio nel, come possiamo dire, nel tempio dei libri, che è la fiera internazionale del libro qui a Torino. E sapete che Radio 24 è la radio ufficiale e in più ha sempre avuto una grande sensibilità nel promuovere la lettura, nell'avvicinarsi ai libri, nel cercare di aprire un po' la mente. Non per niente questa 22esima edizione della Fiera del Libro si intitola Io e gli altri usciamo dal guscio, che è un modo effettivamente, leggendo un libro, di uscire dal guscio delle proprie idee, cercando di contaminarsi, anche se si vuole conoscere perlomeno le idee, le riflessioni degli altri, altri mondi, altri orizzonti. Bene, noi intanto siamo quindi qui, se sentite questo brusio di sottofondo, è tutto il mondo veramente molto folto che si agita intorno ai libri. Si dice che in Italia non si legge più, però veramente quasi non ci si riesce a muovere qui alla Fiera del Libro di Torino. Ma noi iniziamo questa volta, il mio ospite, che sarà opinionista di questa puntata fino alle 15, è un grande scrittore come Antonio Scurati. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Antonio è qui perché al di là, insomma, che sia uno scrittore tout court, ma anche appena pubblicato con Bompiani Il bambino che sognava la fine del mondo. E questo bel bimbo con gli occhi un po' malinconici in copertina sei tu, Antonio? Ma pare, qualcuno ha riscontrato delle somiglianze. Io trovo che ti assomigli moltissimo questo bimbo, ma sei o non sei? Con l'uomo non troppo bello che poi sono diventato una persona. Che sei un bell'uomo, insomma. Sì. Vuoi complimenti, va bene. Fishing for compliments. No, sì, sono io. Sei tu, hai visto? Ho un po' di occhio somatico. Un mio amico che fa, fra l'altro, il mestiere del giornalista che non nominerò, che è anche uno dei personaggi del romanzo, mi ha detto, la prossima volta non ti rimane che intitolarlo anche Antonio Scurati il romanzo, perché per il resto hai già fatto tutto. Senti Antonio, tu sei ovviamente scrittore, sei editorialista della Stampa, del quotidiano La Stampa, quindi qui di Torino, sei candidato al premio Strega, giusto? Adesso sì, ufficialmente. Ufficialmente possiamo dirlo, lo vedevo in questi giorni, hai scritto diversi libri, hai vinto il premio Campiello, però adesso partiamo tra pochissimo sui fatti della settimana, che sono sempre tantissimi e mi interessa vedere dal tuo punto di vista, insomma, quale può essere una chiave di lettura, le sceglierai tu, poi vediamo anche in base a quello che decideranno gli ascoltatori di dire qual è la loro notizia della settimana o qual è il fatto comunque sul quale vogliono tornare, fare quella riflessione che sentivano che mancava. Però come sempre, lo sapete, a un certo punto, qui quasi all'inizio di Non ci sono più le mezze stagioni, prendiamo anche un altro punto di vista, da un'altra angolazione, da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Riguardiamo quindi un po' giù verso la Terra anche questa settimana qui da Marte. Dunque, se Amleto vivesse in questi tempi, forse un po' più sincopati dei suoi, si lambiccherebbe le meningi così: respingere o non respingere? Questo è il problema. E così, mentre il dilemma impazza anche in Italia, uno dei leader della sinistra, Piero Fassino, risponde: respingere, respingere. Mentre si scopre che un leader della destra, Gianfranco Fini, non respinge più, per esempio, le persone omosessuali e anzi le riceve alla Camera come fosse il soggiorno. Che il respingimento di una certa eredità della destra da parte di Fini voglia dire che vuole rubare il mestiere alla sinistra? Sarà mica che la politica italiana, mischiando un po' le carte, abbia deciso di respingere le proprie coordinate? E a proposito di respingere, se la crisi economica è soprattutto psicologica, basterà andare dallo psicologo per respingerla? Antonio Scurati, non so se c'è qualche notizia in particolare di questa settimana che ti ha colpito, però se vuoi io tento sempre questa disperata sintesi dei fatti, un miliardesimo delle cose, anche meno di un miliardesimo delle cose che succedono nel mondo. Però tu saprai che il PIL, il prodotto interno lordo, quindi l'indice di ricchezza del nostro paese, è a meno 5,9%, quindi non è mai stato così basso da 29 anni, dal 1980. Poi c'è stata tutta la polemica sui rimpatri, i cosiddetti respingimenti per l'appunto, c'è il monito dell'ONU all'Italia, la CEI che critica il governo perché elude il tema dell'integrazione, opposizione e maggioranza che si contrappongono, ma a volte anche su questa cosa si intendono. Insomma, una questione che ha creato moltissime polemiche, c'è questa scia molto lunga ancora da parte della comunità internazionale, gli attacchi eccetera. Napolitano stesso, il Presidente della Repubblica, che ha detto c'è troppa retorica xenofoba nella nostra dimensione pubblica, e Bossi dice no, io ascolto la gente e sento quello che desiderano, che vogliono, le loro esigenze, e agiamo di conseguenza. Poi è passato alla Camera, dovrà anche passare poi al Senato il disegno di legge sulla sicurezza, con le nuove norme la clandestinità diventa reato. E poi saranno poi ratificate, insomma, queste benedette ronde di cui si è parlato da molto. C'è stato il viaggio del Papa in Medio Oriente, che ha parlato di più sicurezza per Israele, ma anche uno Stato finalmente per i palestinesi. Sapete che in Birmania la premio Nobel della pace Aung San Suu Kyi in cella dopo l'intrusione di un americano che ha fatto a nuoto questo lago per raggiungerla, forse a fin di bene, non lo so, ma l'ha messa nei guai e potrebbe rischiare 5 anni di prigione, che già insomma non è in buone condizioni di salute. Una buona notizia invece è stata rilasciata la giornalista irano-americana in Iran. In India si sono concluse, anche se bisogna capire l'esito che per ora è incerto, le elezioni più grandi, più lunghe del mondo, perché durano un mese, sono, pensate, 1.100.000 abitanti più o meno in India, poco di più, e hanno votato più di 700 milioni, quindi veramente delle molto impegnative. E la cosa particolare è che per il momento, quando ancora i risultati appunto non sono certi, sembra che ci sia in testa Sonia Gandhi, l'erede di Indira Gandhi, vedova di Rajiv, lei che è la leader del partito del congresso. Ma la cosa più particolare, questa è la rivelazione, che il governo in India potrebbe essere guidato, pensate, da Mayawati, che è una donna definita la regina degli intoccabili. Sapete che ci sono le caste, ci sono proprio la più bassa assoluta, quelli che puliscono le latrine, che non possono essere neanche toccati, tanto sono reietti, che sono appunto questa casa di intoccabili. E lei è partita dal nulla, da una baraccopoli disgraziata, ed è rischia di diventare veramente una grandissima leader, speriamo. E poi ci spostiamo poco più in là, in Bangladesh, dove invece c'è stata in questi giorni una manifestazione dei volti segnati dall'acido, che è molto usato, per chi non lo sa, contro le donne. Una donna basta in Bangladesh che respinga le avance di un uomo e riceve questo bicchiere in faccia di acido, rovinata per tutta la vita. Ce ne sono moltissime. In Gran Bretagna questo scandalo dei rimborsi dei deputati, che travolge anche i conservatori, quindi la politica a volte, diciamo, si può dire che insomma tutto il mondo è paese. Arrestati a Bari 2 leader di Al-Qaeda che vogliono fare degli attentati a Parigi. A Frosinone questo ennesimo incidente con la soda caustica, che ci si chiede com'è possibile che nei bar ancora si confondano le bottiglie, non è possibile fare delle bottiglie diverse, scrivere un'etichetta, colorarle in qualche modo per distinguerle dall'acqua invece rispetto ai detersivi. Il caso della Formula 1, dove la Ferrari dice no, se c'è il tetto, questi regolamenti nuovi, un tetto di budget troppo basso per le spese, noi ci rifiutiamo di partecipare, quindi potrebbe saltare, chi lo sa, la Formula 1. Potrebbero fare potrebbero rischiare insomma di dover organizzare tutte altre gare, vedremo. Poi c'è la morte di Susanna Agnelli, la morte di Achille Compagnoni, il grande scalatore. Antonio, mentre io riprendo fiato, c'è qualcosa qui che pensi possa, sul quale hai voglia di ritornare? Penso che dovremmo riprendere fiato tutti quanti. Mi sembra questa tua trasmissione, se posso darti il tu, una dimostrazione quintessenziale del modo in cui viviamo noi oggi, vedi? Sai cosa farebbe un grande romanziere di tutta questa tua prolusione? Quindi, per esempio, tu sì. Un grande romanziere, che non sono io, un grande romanziere avrebbe la capacità di prendere tutta questa frantumaglia, no? Che la cronaca quotidianamente ci mette dinanzi agli occhi, queste notizie slegate l'una dall'altra. Entropia, dice forse Pasolini. Sì, questo flusso che costringe i nostri bulbi oculari a schizzare a destra e a sinistra, da oriente a occidente, dal pubblico al privato, prenderebbe tutto questi cascami di umanità, questi frattaglie di intestino umano, e riuscirebbe a tesserle in una grande rete e mostrarne, come dire, l'interrelazione reciproca. Invece noi no, non siamo grandi romanzieri, e quindi dobbiamo in qualche modo rassegnarci a vivere al tempo della cronaca. Il tempo della cronaca è quello in cui niente si tiene, insomma, e allora possiamo saltabeccare da una cosa all'altra così in modo del tutto arbitrario. Non so, dimmi tu da dove vuoi cominciare, tanto è tutto... Ma per esempio questa storia che probabilmente continuerà finché non si prende una decisione, non si capisce che cosa è giusto fare, qual è la soluzione sulla questione dell'immigrazione, no? È una cosa che continua a tenere alto il dibattito, è anche violento, tu sai appunto che ci sono questo monito fortissimo dell'ONU, della comunità internazionale, però è anche vero che è un problema grosso, no? Bisogna aprirsi senza limiti all'accoglienza senza freni, che comunque un po' mette in difficoltà, sì. Perché queste persone cosa faranno poi nella vita, dove vivranno, che lavoro faranno, no? Però da una parte è chiaro che non si possono neanche ributtare così male queste vite disperate. Io dico soprattutto le donne, bisogna avere un occhio di riguardo per le donne, perché sentivo anche testimonianza di un giornalista di Repubblica, se non sbaglio, che aveva assistito a questi ultimi sbarchi e poi al respingimento, e di donne che dicevano: noi siamo violentate da una parte o dall'altra, dagli scafisti, dall'altra parte dove partiamo in Libia, quando arriviamo, insomma. Che cosa si può fare? Guarda, che cosa si può fare? Non lo so. Posso dirti che cosa possiamo fare tutti noi? Possiamo guardare a questo fenomeno senza perdere di vista la sua entità. Noi siamo di fronte effettivamente ad un dramma epocale. Le migrazioni dei popoli sono state in passato e continuano a essere ancora oggi un dramma epocale, qualcosa che ha una grandezza, no, che non si può trascurare. Torno al discorso che facevamo prima. Noi troppo spesso, purtroppo, siamo indirizzati a guardare a questo e ad altri fenomeni dentro l'ottica angusta, piccina, stretta di quello che io chiamo il tempo della cronaca. Ecco, come una notizia accanto a tante altre, no? Come a frantumi di vita che non si collegano mai tra di loro. Ogni giorno una notizia, e il giorno dopo la notizia precedente è stata dimenticata. Il tritacarne è ciò che leggo a pagina 2 non ha nessun legame con ciò che leggo a pagina 5, ciò che leggo oggi non avrà nessun legame con ciò che leggerò dopodomani. Questo è il tritacarne della cronaca e ci dà un'ottica sbagliata, fuorviante e ingenerosa riguardo a questi fenomeni. Le migrazioni dei popoli, hai ragione tu, sono un dramma epocale, creano problemi enormi, portano con sé carichi di sofferenza enorme, ed è in quanto tali che noi dobbiamo guardarli, cioè a testa alta, con sguardo ampio, con coraggio, con radicalità se necessario, ma con questo sguardo all'orizzonte. Non possiamo ridurre il problema delle migrazioni dei popoli, questo dramma epocale, ad una, come dire, meschino vaudeville tutto interno alle fazioni politiche italiane. Non possiamo ridurlo a una questione di pubblica sicurezza. Non possiamo farlo scadere, diciamo così, al livello di del problema di 100 o 150 persone che noi vigliaccamente rimpatriamo fregandocene dei loro drammi, perché questo ci serve in una campagna elettorale. Se faremo questo, e lo stiamo facendo, non saremo più furbi, non saremo più pragmatici, saremo meno generosi verso gli altri e molto meno generosi verso il nostro destino prossimo. Però ammetti, Antonio Scurati, che è un problema difficile da gestire. Ma questo ti dico, io questo sto dicendo, è un problema difficile, io uso questa espressione, dramma epocale, sia nel senso perché artistico. Perché è più grande di noi, sì, dice, sì, più grande sia nel senso artistico, cioè, come dire, è una grande opera, una rappresentazione su grande scala, che coinvolge e richiede grandi sentimenti, che presuppone grandi sofferenze, anche una dimensione tragica, sia nel senso proprio del suo peso politico. Ciò che a me fa veramente infuriare è quando di fronte alle cose grandi, anche ai problemi grandi, si risponde con meschinità, con piccineria, strumentalizzandole, utilizzandole, sminuendole. Un dramma epocale come quello delle migrazioni dei popoli richiede come risposta una grande politica, non una politica meschina, appunto, che lo riduce, lo usa come strumento di propaganda elettorale, come sta avvenendo in questi giorni, oppure lo riduce, capito? Lo diminuisce di grandezza, di importanza, lo fa scadere a livello di questione di ordine pubblico o del rimpatrio di poche centinaia di persone. Abbiamo il coraggio, qualunque siano le nostre scelte, di rispondere con una grande politica, no, a un grande dramma. Adesso cominciamo a dare voce anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che stanno chiamando al numero verde 800 24 00 24. C'è Marco da Milano, che lo saluto perché poi mi dicono che abbiamo la viabilità in linea per chi sta guidando, così anche le informazioni in tempo reale. Intanto ti saluto, Marco. Sì, buongiorno. Pronto, Marco? Hai ancora un po' di pazienza? Hai ancora un po' di pazienza, Marco? Sì, assolutamente. Sempre insieme, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi, al mio fianco, anzi di fronte a me, Antonio Scurati, scrittore, appena pubblicato Il bambino che sognava la fine del mondo. A volte, come si diceva, leggendo davvero e raccontandoci un po' e ponendo l'attenzione su tutte, insomma una piccolissima parte almeno delle notizie che si susseguono nella settimana, davvero sembrerebbe a volte la fine del mondo, Antonio, delle cose che dicevamo, tu, abbiamo parlato di questo dramma epocale delle migrazioni, ma di tantissime altre cose. Tanti dicono, ma insomma, perché non esiste un media, un mezzo di informazione che parli solo delle buone notizie? Tu te la sei mai posta questa domanda? Perché non c'è? Perché non funzionerebbe? Perché sono pochi? Perché i media si nutrono delle nostre paure e quelle stanno lì come dei parassiti, come, e si alimentano di quelle. Noi compresi, quindi mi stai guardando negli occhi. Sì, ti sto guardando negli occhi. Ma sai perché accade questo? Questo è un luogo comune, è un'ovvietà, ma come tutte le ovvietà ha una verità al suo fondo. Questo accade perché i mezzi di comunicazione di massa ovviamente si alimentano delle nostre passioni. E il problema è che noi sembriamo ormai un'umanità la cui ultima passione sia rimasta la paura, e quindi gioco forza, i mass media si nutrono di quella. Se, come dire, altri ha una gamma più ampia di passioni, ci smuovesse, no? I media si nutrirebbero di quelle. Se la speranza, adesso per usare questa parola tanto agitata come un feticcio, ma che viene agitata proprio perché sta in luogo di un'assenza, proprio perché non c'è questa speranza, proprio perché non ne abbiamo, se la speranza riscaldasse i nostri cuori, i media si nutrirebbero di quella, eh? Non è che sono necessariamente coprofaghi e vogliono solo la paura o le cose sozze. A un certo punto, con l'elezione di Barack Obama, se un valore simbolico ha negli Stati Uniti è il seguente: gli americani, che negli ultimi 9 anni, 10 anni si sono nutriti di paure, hanno detto basta, la paura è un piatto che noi non vogliamo più ci sia servito, adesso chiediamo la speranza, in maniera del tutto così arbitraria, anche un po' volontaristica. Hanno detto fine della paura, inizio della speranza, come dei anche un gioco un po' bambinesco, se vogliamo. Ebbene, i media hanno cominciato a nutrirsi della loro speranza. Allora, dopo ti chiedo una cosa a questo proposito, Antonio Scurati. Diamo un attimo spazio al primo degli ascoltatori, Marco da Milano. Grazie intanto della pazienza. Ricordo, siamo alla Fiera del Libro di Torino, Fiera Internazionale, affollatissima. Il numero verde per le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono intervenire su quello che si dice qui, non ci sono più le mezze stagioni. Se hanno in mente una notizia di questa settimana sulla quale vogliono intervenire, 800 24 0024, ha chiamato anche Marco da Milano. Eccoci, Marco. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno anche al tuo ospite. Io volevo, mi sposto un attimo da quel tema drammatico che è l'immigrazione, che può essere vista da varie sfaccettature, no? A sì. Me la notizia che ha colpito invece questa settimana è stata l'elezione come direzione dell'Asso Lombarda di un manager di Stato. Sì. Allora, l'Asso Lombarda fondamentalmente, per ovvietà, è senz'altro l'associazione industriale più importante d'Italia, si può dire, in quanto la Lombardia è la una, più grossa, una regione, sì, centro economico. No? Esatto, e a me ha colpito il fatto di questa elezione di un manager di Stato e non di un industriale, dato che dal mio punto di vista queste notizie hanno sempre un risvolto un attimino politico, no? E se metto assieme per esempio il fatto che il manager di Stato, l'ENI, che ha contribuito alla social card, a contribuire a pagare la social card, le banche che sono state accusate di fare extra profitti, non riesco bene a collocarmi, no? Mi chiedo, può essere che mi sia perso un'elezione e non ci sia al governo una forza di centrodestra, liberale, e ci sia qualche altra forza, diciamo, un po' più virgolettata statalista? È questo, semplicemente questa è la mia. Ti ringrazio, Marco da Milano, e lasciamo la domanda sospesa a chi volesse rispondere delle ascoltatrici e ascoltatori, a meno che Antonio Scurati non voglia intervenire. Però proprio Antonio invece, che parlava del fatto che i media si nutrono un po', insomma, delle paure, che questa è naturalmente la visione di Antonio Scurati, ed è anche un po' un'accusa che tu riporti nel tuo libro, in questo libro Il bambino che sognava la fine del mondo. Tu dici che siamo costantemente un po' riportati ai terrori della nostra infanzia, le paure quindi un po' ancestrali. Sì, ma è presto detto, io lo ripeto sempre, se io guardo attorno a me e agli uomini e alle donne della mia generazione, io faccio 40 anni il prossimo 25 giugno, Dunque, noi apparteniamo auguri in anticipo, grazie, allora, Antonio. Grazie. Apparteniamo all'umanità più sicura, protetta, agiata, diciamo così, nutrita, longeva, che abbia mai calcato la faccia della Terra. Non c'è paragone con nessun'altra epoca e con nessun altro luogo del pianeta, dico noi occidentali, insomma, nati in questa Europa pacificata, eccetera, eccetera. Eppure, se guardiamo alla rappresentazione che diamo di noi stessi, sembriamo essere la più spaventata, la più insicura, no? Il fatto che la paura sia l'unica grande passione del nostro tempo è un luogo comune, eccetera, eccetera. Allora c'è qualcosa che non torna. E cosa non torna? Sicuramente c'è un cuneo messo tra la nostra condizione reale di persone comunque in difficoltà economica, in crisi, ma comunque agiate, comunque longeve, eccetera, eccetera, e le nostre paure che insomma ci divorano. Questo cuneo in buona parte sono i mezzi di comunicazione di massa. I mezzi di comunicazione di massa creano per noi un ambiente vitale, un ambiente mediatico che è intriso di liquidi emorragici, che è popolato di mostri minacciosi. Lo straniero, no? Lo straniero è dipinto come una specie di aggressore barbarico. Ma tutti in media, dici tu, Antonio? Ma più o meno sì, ma sì. Più o meno sì. Ma ragazzi, pensiamo alle ultime elezioni politiche. Anche i media di sinistra, la Repubblica, per esempio, vogliamo parlare. La Repubblica, alle ultime elezioni politiche, ha fatto una campagna stampa a favore dei partiti del centrodestra, no? Probabilmente senza saperlo, senza volerlo, quando ha dedicato paginate e paginate a agli stupri della periferia romana. Perché? Perché in quel modo comunque pensava di vendere più copie, e quello lì ovviamente ha contribuito a innalzare il livello di allarme riguardo a questi stranieri minacciosi che sono lì, e come ricaduta ha dato il suo contributo non secondario, come dire, al trionfo che sarebbe comunque avvenuto dei governi dell'attuale governo, quindi dei partiti centrodestra. Adesso il punto secondo me è questo. Noi ci aggiriamo come, e io qui guardando la mia infanzia, che è quella che racconto nel romanzo, ho trovato un po' una chiave per raccontare questa nostra condizione. Da un lato noi siamo appunto agiati, longevi, sicuri, protetti e spaventati. Dall'altro viaggiamo in una sorta di condizione di sonnambulismo florido in cui fatichiamo a distinguere il reale dall'immaginario. Dunque l'immigrazione è un dramma epocale ed è reale. Ma gli stupri ci sono quotidianamente. Però gli indici riguardo alla sicurezza personale nel periodo coperto in quel modo allarmistico dai media, in realtà stavano decrescendo, no? E adesso che stanno tornando a crescere non c'è un allarme mediatico, e quindi, come vedi, c'è comunque un giunto spezzato tra reale e immaginario, tra informazione e realtà. Ed è per questo che io racconto la mia infanzia di bambino, diciamo, terrorizzato, che era un bambino ben voluto, amato dai suoi genitori, agiato, cresciuto in una condizione di benessere, eccetera, eccetera. E ciò non di meno, notte dopo notte mi alzavo in preda a incubi terribili, correvo per la casa urlando: chiudete i cancelli, sta per entrare Dracula. Facevo il numero del 113, una volta l'ho fatto davvero, e ho detto: correte, mio padre sta uccidendo mia madre. E mio padre era in viaggio da fare in India. La polizia è venuta lo stesso a casa a verificare. Allora, quel bambino, quel terrore, no? Tu non leggevi già i giornali allora, però? Ma come no? Io un episodio che ho ricostruito della mia infanzia e che lo uso qui anche in una funzione simbolica è il seguente. Io un giorno guardo all'edicola in Campo Santi Apostoli a Venezia, perché all'epoca vivevo a Venezia, e vedo capannelli di uomini adulti che appunto si radunano accanto all'edicola a testa alta e leggevano questa edizione del Corriere della Sera. Io avevo 7 anni, quindi avevo già imparato a leggere, che annunciava lo sbarco degli extraterrestri in Messico, e questi extraterrestri mangiavano. Ma quello era Orson Welles Redivivo, è possibile? No, era il male, non so se vi ricordate Celeberrima, testata satirica, in un giorno di sciopero del Corriere della Sera fa un'edizione falsa del Corriere della Sera e annuncia lo sbarco degli extraterrestri mangiatori di uomini. Ora, siccome il Corriere della Sera era il giornale che tutte le sere mio padre portava in casa ed attraverso quello entrava in casa il mondo, era il luogo della verità, dell'autorevolezza. Nel momento in cui mio padre mi prende sulle ginocchia e mi dice: ma guarda che è uno scherzo, io entro in una confusione micidiale, perché è il giornale, e inizio a provare lo stesso terrore che provai quando negli stessi anni chiusero la scuola, ci mandarono a casa, io ero in seconda elementare e io feci tutto il percorso andando a casa da solo e vidi gli stessi capannelli di adulti raccolti attorno alle edicole e guardavano però l'immagine di un vecchietto, perché ai miei occhi era un vecchietto, acciambellato nel portabagagli di un'automobile. Che era moro. Per me il terrore che provocarono quelle due situazioni era identico. Ecco, io a volte ho il sospetto che noi si sia un po' nella stessa condizione, no? Di quel bambino sonnambulo che non sa più discernere, no? La paura che è generata in lui dalla fatto di tragedia politica epocale come l'omicidio Moro, e invece dalla grande, come dire, montatura mediatica dello sbarco degli extraterrestri. Quindi abbiamo scoperto anche un po' legato all'attualità il bambino Antonio Scurati. Ma prima tu dicevi, quindi i mass media alimentano un po' questa inquietudine, questa visione oscura della realtà. Ma allora, per esempio, un presidente del Consiglio come Berlusconi, che però ha ricevuto le dure critiche dell'opposizione, che dice in questi giorni in realtà la crisi economica è soprattutto psicologica, quindi bisogna infondere ottimismo, speranza, tu parlavi prima di speranza rispetto agli Stati Uniti, quindi in questo caso va bene? Appartengono allo stesso mazzo di carte. Allo stesso mazzo di carte, cioè sono entrambe queste, non il Presidente del Consiglio in quanto tale, non mi azzarderei a fare un'affermazione del genere, ma questa sua ultima dichiarazione, la circoscrivo, diciamo, questa sua ultima dichiarazione e la speculazione mediatica sulla paura appartengono a quella lento e lungo apprendistato all'irrealtà, no? Che è stato l'iniziazione alla vita della mia generazione. E questo è il punto. Dire che l'economia si basa interamente ed esclusivamente su attese e annunci, su iniezioni di ottimismo, oppure creare dei casi di cronaca spaventosi speculando sulla paura della gente, li vedi abbastanza omologo. Sono la stessa cosa, sono lo stesso mazzo di carte. Se c'è una cosa, posso dire, se c'è una cosa che questa crisi finanziaria ha dimostrato, è il valore insopprimibile del lavoro. Per anni, come cosa materiale, concreta, come elemento basale della produzione, della produttività in mano, per anni ci hanno detto che l'economia girava tutta su finanza, speculazioni, denaro su denaro, dimenticando la centralità del lavoro. Questo è l'insegnamento. Quella che era questa l'economia crisi creativa cosiddetta. Sempre qui dalla Fiera Internazionale del Libro di Torino, Roberta Giordano con voi, saremo insieme sino alle 15 e con me c'è lo scrittore Antonio Scurati, editorialista della Stampa, appena pubblicato Il bambino che sognava la fine del mondo, che poi abbiamo scoperto che è un po' la sua storia di quando era piccolo e che è molto collegata all'attualità, ai mass media, insomma è venuta fuori una cosa molto interessante e omogenea. Sempre numero verde per gli ascoltatori e le ascoltatrici, ai quali adesso chiedo scusa, ho dato forse poco spazio, 800 24 0024, ma i fatti sono sempre tanti, sono sempre così coinvolgenti. Abbiamo parlato di questo dramma epocale dell'immigrazione, del respingimento o non respingimenti, abbiamo parlato anche un po' di politica, di crisi economica. Sentiamo qual è la notizia, il fatto, la riflessione di Carlo che chiama da Pisa. Carlo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto volevo salutare Antonio Scurati e dirgli che sono a metà della lettura del suo libro. Dai, e ti piace? Secondo me. Ti chiede Carlo se ti piace, ti ha chiesto Antonio. Mi non piace sentito molto. Volevo fare, anzi, più che notizie, fare qualche considerazione, nel senso le notizie ne abbiamo, se sono sentite già fin anche troppe. Sì. E sicuramente non ne avrei particolari da aggiungere. No, se ci fosse però, qualche riflessione che vuoi fare, però no, di pure. Riguardo al bambino e alle vicende legate al libro, mi sembra che un messaggio sia questo, ovvero che l'angoscia è parte di noi, la paura, o forse meglio l'angoscia, nel senso che quando non si capisce bene qual è il soggetto o l'oggetto dell'angoscia, della paura, bisognerebbe chiamarla angoscia, è parte di noi. E semplicemente il meccanismo è che i mass media tendono a convogliarla su alcuni oggetti che possono essere di volta in volta l'extracomunitario, la paura dello stupro o cos'altro. E però queste sono solo proiezioni, nel senso che in realtà se uno va a vedere praticamente l'unica, diciamo, l'incidente peggiore che ci può succedere, cioè la probabilità di essere ammazzati per strada è non nulla, solo perché si può essere travolti da un'automobile guidata da uno di noi. Quindi mi sembra proprio un proiettare all'esterno di noi paure che sono dentro di noi. Ma su alcune cose, perdonami Carlo, su alcune cose è vero, su altre meno. Gli stupri ce ne sono un'infinità quotidianamente nel nostro paese come nel mondo, lo si prende quasi come un fatto fisiologico, tanto che alla fine leggevo, non so se l'1% viene condannato, ci sono percentuali bassissime un po' dappertutto. Certo. E anche soprattutto nei paesi più civili le donne se lo portano sicuramente dentro da subito questa cosa, insomma viviamo in un mondo che è quello che è, gli uomini spesso sono quelli che sono. Sono commessi in casa, non sono anche in casa, diciamo, certamente in casa e fuori casa, sì. Cioè, secondo me è un aumentare o concentrarsi in maniera ossessiva su di volta in volta alcuni aspetti piuttosto che su altri, in un gioco, insomma, diciamo, è una proiezione, cioè, si cerca sempre di proiettare all'esterno problematiche che abbiamo al nostro interno. E Carlo, ma tu, visto che stai, che stai facendo in sintonia con Antonio Scurati un po' questa critica ai modi di fare informazione dei mass media, no? Che cosa ti piacerebbe, per esempio, sentire? Di cosa vorresti sentire parlare o leggere nei mezzi di comunicazione? Ma diciamo che spesso mancano i numeri, nel senso che tutta la demagogia che si fa e che possono fare, ma a destra o a sinistra, dipende proprio dall'ignoranza dei numeri. Per esempio, forse non molti sanno che più dell'80% di chi viene in Italia immigrato e magari non regolare non arriva con i barconi, ma arriva con un visto turistico e poi entra in clandestinità, tra virgolette, nell'attesa di avere un permesso di soggiorno. E questo numero dove l'hai preso, Carlo? Mi sembra sulla voce.info, però non potrei quasi giurarci sicuro esattamente sulla fonte. Mi ricordo che era una fonte abbastanza affidabile, ora non mi ricordo se era 85%, però era una gran, diciamo, era una percentuale molto alta. Okay. Infatti è del tutto plausibile, nel senso che il problema nostro non è che non abbiamo leggi, è che le leggi sono assolutamente inapplicabili, nel senso che uno per venire in Italia regolarmente deve combattere con la burocrazia, e tra l'altro dovrebbe combattere con la burocrazia addirittura da un paese estero. E persino chi cerca di fare, chi vive in un ambiente, diciamo, scientifico, e quindi cerca di far venire uno studioso da un paese, non dico sottosviluppato, ma anche un paese in via di sviluppo, e ha dei grossi problemi. Carlo, ti ringrazio. Volevi dire qualcos'altro ad Antonio Scurati? Questo comunque, insomma, il tuo ragionamento, che mi sembra abbastanza simile al suo. Carlo, ti ringrazio, e prima di sentire che cosa ha da ribattere o comunque da esprimere Antonio Scurati, vorrei sentire Marco da Rimini, sempre al numero verde 800 24 00 24, che ricordo anche qua in diretta dalla Fiera del Libro di Torino è sempre aperto agli ascoltatori e alla loro libertà di parola. Marco. Ah, pronto, salve. Ciao Marco. Niente, io volevo chiedere una cosa, soprattutto come viene trattato l'argomento della politica monetaria in Italia e comunque anche nel mondo. Come viene trattato, scusa Marco, ti sentiamo un po' poco. L'argomento della politica monetaria. E nel senso che secondo me molte informazioni non vengono date in maniera molto chiara. Per esempio? Ma diciamo il rapporto fra la politica e quello che riguarda il sistema monetario e soprattutto il ruolo delle banche di emissione all'interno della politica, proprio in generale, insomma, anche quella che non solo del sistema bancario privato, ma quello che può essere poi diciamo l'attività politica della creazione di infrastrutture o di tutto quello che è il finanziamento dell'attività, insomma. Cioè ritieni che ci dovrebbe essere più trasparenza in questo? Ma più trasparenza, adesso io faccio fatica un po' diciamo, il mio intervento non vuole essere... Sì, anche io faccio un po' fatica a capirti, scusa Marco. No, nel senso, sì, non vuole essere di parte, nel senso che non vuole dare delle ricette, diciamo, o fare un intervento politico, ma più che altro sulla questione di quello che, di come viene trattato l'argomento monetario nei mezzi di comunicazione. Perché, ecco, volevo fare una domanda di come potrebbe essere trattato in maniera diversa, più chiara. Guarda Marco, sì, non lo so, non so se Antonio Scurati abbia una risposta in questo senso, da saggista, romanziere, eccetera. Grazie Marco, non so se voglia dire qualcosa. No. Antonio Scurati non ha nessuna risposta su questo, perché non sia una cosa importante, ma proprio tutto ciò che è monetario mi è più sufficientemente strano. E allora voglio ritornare, Antonio, su un'altra questione, sempre politica ma anche culturale per il nostro paese, non solo, no? Prima parlavamo, abbiamo trattato vari argomenti, questa cosa che veniva dalle riflessioni da Marte anche, no? Di Gianfranco Fini, leader della destra, che negli ultimi tempi non so se si sta un po' smarcando da una certa eredità o ideologia di una destra conservatrice, se sta promuovendo una nuova destra, una destra nuova, non so come dire, però anche il fatto che abbia accolto in questi giorni alla Camera le associazioni omosessuali, mentre ricordo mi pare nel 98 avesse detto non è opportuno che un maestro omosessuale insegni in una scuola, no? Invece adesso questa apertura sulla legge 40, la legge sulla fecondazione assistita, anche si era detto favorevole alla fecondazione assistita, adesso sappiamo che la Cassazione, la Corte Costituzionale farà di nuovo mutare questa legge dopo il referendum che ci fu. Sulla questione dell'eutanasia, sul caso Englaro, anche si era espresso in modo piuttosto indipendente dal PDL, dal centrodestra, sulla laicità dello Stato, diceva non deve essere uno Stato etico ma uno Stato laico, e su questa cosa di aver accolto giorni fa appunto le associazioni omosessuali alla Camera. Come la vedi tu? C'è un disegno sotto, come qualcuno pensa, una questione di opportunismo, di fare dispetto da una parte a Berlusconi, dall'altra alla sinistra, o è una sua, così come si dice, soltanto gli stupidi non cambiano idea nella vita, no? A volte si dice. Guarda, se devo essere sincero, non me ne frega niente. Ma questa, è molto sincero. Ma questo no, non prenderlo come così cosa antipatica nei tuoi confronti. No. Questa, secondo me, è la risposta che gorgoglia, sale in gola spontaneamente, non solo a me, ma torno a fare un discorso generazionale, alla mia generazione. Dunque, io adesso potrei interpretare come si fa, fanno i politologi, questi gesti di fini come tentativo di prepararsi alla successione, Berlusconi, eccetera, eccetera. Il punto, però, secondo me, è un altro. Innanzitutto, qualsiasi di questi elementi che tu hai citato presupporrebbe l'incompatibilità della sua alleanza con Berlusconi. Quindi, fin tanto che questa indipendenza non si traduce in un'autonomia, in una rottura politica, non personale, con il Presidente del Consiglio e il leader principale, il Partito della Libertà, che segue tutt'altra politica, ai miei occhi ha poca credibilità. Ma il punto è un altro, è che parlavo prima della mia generazione che si è iniziata la vita attraverso un apprendistato alla irrealtà. Ecco, un'altra delle caratteristiche generazionali di chi si avvia ad avere 40 anni è questa, che la politica è stata veramente una stella polare, cioè un punto di orientamento certo e sicuro nel mondo, ma un orientamento in negativo. Cioè, per me e la mia generazione, la politica è stata ciò da cui tenersi lontani. Infatti c'è una disaffezione di questa fascia d'età. Adesso i più giovani, sembrerebbe da una ricerca mi pare della scorsa settimana, che invece siano un po' più interessati alla politica. Ma ecco, questa ne dubito fortemente, ma questa mia affermazione ha un immediato cascame rovescio qualunquistico, no? Nel dire la politica no, è tutta una schifezza, è tutta una cosa. No, il rischio è forte, ma ciò che a me interessa è, quando mi chiedo anche riguardo a questi tentativi di fini, di smarcamento però accorto da Berlusconi, di autorevisionismo in vista di una leadership futura, mi chiedo, rientrano o non rientrano in quella politica che appunto per la mia generazione da punto di orientamento negativo, cioè da ciò da cui bisognava tenersi lontani? Prima domanda che mi pongo, preliminare, no? La mia risposta è sì, rientrano. Dunque ogni successivo interesse viene meno. Ma è qui per non cadere nel qualunquismo obbligato. Questa lontananza proprio, di orientamento nel mondo dalla politica necessaria ha generato in noi un sentimento di vedovanza. È come se noi fossimo in qualche modo nati orfani, no? Ci fosse mancato qualcosa fin dalla nascita di essenziale. E io quando guardo i miei studenti che hanno completamente chiuso la comunicazione con il canale della politica istituzionale ufficiale e si rivolgono altrove e sento, quelli più vecchi che li tacciano in qualche modo di disinteresse, qualunquismo, apatia, vengo sfiorato da questo dubbio. Mi chiedo, e se avessero ragione loro, se rivolgendosi altrove, se smettendo di guardare la politica come a qualcosa che non li riguarda più, si stessero avventurando con un'avventura dello sguardo verso terre incognite, lasciandosi alle spalle tutto ciò in modo sano e coraggioso? Bisogna scoprire poi qual è l'approdo, ma comunque proseguiamo. Il numero verde è 800 24 00 24, siamo con Antonio Scurati qui dalla Fiera Internazionale del Libro di Torino. C'è Icam o Icam da Milano, come si pronuncia? Com'è il tuo nome? Il mio sono di origine marocchina, sono nazionalizzato ormai da anni. Ah, e si pronuncia? Hicham, così liscio Hicham. Com'è, è un Hicham. Po', sì, lettura francese, diciamo. Ah, alla francese. Senti, e da quanti anni sei in Italia, Hicham? E sono qui da 22 anni. Quindi veramente tanto tempo. Puoi dire di essere, ti senti italiano a questo punto, Hicham? Sì, mi sento italiano anche se porto sempre nel mio cuore una parte. Ci mancherebbe, certo. Prego, Hicham. La mia era una constatazione per quanto riguarda il dramma dei popoli, che viaggia poi nel senso del dottore. Vi faccio i complimenti per la trasmissione comunque. Ti ringrazio. Niente, io ultimamente viaggio spesso in Marocco e secondo me il Marocco è un paese in via di sviluppo. Spiego la mia idea, non si allontana, magari mi sembra di allontanarmi. Sempre dalla Fiera del Libro di Torino, fiera internazionale affollatissima, non si direbbe che gli italiani leggano poco, pare che siano però molto incuriositi. Vengono qui a passeggiare invece di leggere, quello è il problema. Sì. Questo è Antonio Scurati che lo dice da scrittore, quindi insomma non mi sembra molto incoraggiante, però il tuo libro, c'era già uno degli ascoltatori che è intervenuto, il bambino che sognava la fine del mondo, che ha detto che lo sta leggendo, quindi vedi che insomma già una buona percentuale su un campione di ascoltatori che stanno chiamando. Sempre Roberta Giordano con voi sino alle 15. Voi potete chiamare in massima libertà per fare le vostre riflessioni sui tanti fatti della settimana al numero verde 800 24 00 24. E ci siamo lasciati poco fa con Hicham, che chiama da Milano, che è marocchino da 22 anni in Italia. Ci stavi raccontando, di cosa ci stavi parlando, Hicham? Scusami, allora, te l'ho interrotto. Niente, io sono rientrato ieri dal Marocco. Sì. E voglio congiungere nell'idea del dottore sul dramma dei popoli. Ecco, il Marocco io lo considero un paese in via di sviluppo, non del terzo mondo. Con tutti i problemi che ci sono, tutti i fenomeni che esistono, così ve lo dico da proprio marocchino, che abbiamo un fenomeno che dilaga da anni e anni, che è quello della gente che mendica a mezzo alla strada, lo Stato fa di tutto per risolvere queste cose qua. Oggi mi trovo un altro fenomeno che si aggiunge ai problemi che ha il Marocco, tutto sommato che non è un paese industrializzato come l'Italia. Sì. Trovo questi popoli che arrivano dall'Africa, che sono tantissimi, tantissimi, tantissimi dappertutto, e chiedono l'elemosina mezzo alle strade, che veramente vedi la desolazione. Disperati, scappano dalle guerre, vedi tutto nelle loro facce. Il mio pensiero in tutto questo va ai governi, ai politici, ai regimi, cosa fanno? La gente continua a morire, a soffrire, e vedere queste cose, è impossibile andare avanti. Hicham, ma stai parlando degli stati di provenienza o quelli di approdo? Ma tutti e due li abbiamo anche qui, a vedere anche quelli che arrivano da tutti i giorni sull'isola italiana, su Lampedusa, cioè con i loro problemi. Cioè non penso che oggi, come diceva il dottore prima, il problema vada risolto con un rimpatrio immediato di tutti quelli che arrivano. Tu che cosa proporresti? Ma capisco che da singoli cittadini così, però tu una qualche ipotesi, un'idea ce l'avresti? La mia ipotesi è quella di andare a lavorare sul posto di origine. Non abbandonarli, questa gente è abbandonata perché non ha niente da dare, non ha niente, non ha nulla, perché se fossero stati paesi ricchi, a parte il fatto che ce ne siano tanti che hanno fra diamanti e petrolio, ma sono lasciati abbandonati alle guerre, al martirio, sfruttati, sì. Sono abbandonati perché gli stati che conducono purtroppo il gioco internazionale sono disinteressati. Certo. Hicham, io ti ringrazio moltissimo ringrazio di essere intervenuto, di aver dato la tua testimonianza e il tuo punto di vista, e sono felice che tu comunque stia bene in Italia, e con questo pensiero però al Marocco che naturalmente ti rimane. Adesso io tra poco devo dare la linea al colonnello Giuliaci, immancabile. Ci sarà anche Valera della Valle tra pochi istanti, quindi mi affretto per non comprimerli troppo negli spazi. Colonnello Giuliaci, buongiorno, sei? Roberta. Ciao, ci colonnello. Ci sono, ancora. Senti, io non... piedato. Ancora un piede sì o un piede no, colonnello. Piede no, sei un po' infortunato in questi giorni, quindi non ti chiederò delle previsioni meteorologiche, probabilmente non hai potuto scandagliare più di tanto, ma di una notizia che forse Antonio Scurati anche questo dirà, questo è, sono i mass media che continuano a nutrirci e a nutrirsi di paure, però è stata pubblicata questa ricerca in questa settimana sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet, secondo la quale miliardi di persone sulla Terra sono minacciate dai cambiamenti climatici, perché si continua a dire non si gestiscono, non si fa nulla per cercare di frenare l'inquinamento e il surriscaldamento del pianeta. E secondo questa ricerca l'aumento della temperatura globale porterà nei paesi a clima temperato e freddo malattie oggi tipicamente tropicali, poi la siccità farà dilagare mali come la gastroenterite, la malnutrizione, le ondate di calore faranno milioni di vittime. Cosa pensi tu, colonnello, da meteorologo? Notizie come queste fanno sempre audience, quindi sono un po' esagerate, ma sono deliberatamente esagerate perché raccolgono appunto come audience. Tu ricordi un anno fa? Dimmelo in un minuto, colonnello, cosa pensi? Guarda, minuto te lo dico. Un anno fa fu detto, attenzione, quest'estate nel 2008 i ghiacci dell'Artico scompariranno completamente. Notizia ridicola, perché i più ci hanno creduto, in realtà i ghiacci polari hanno recuperato rispetto a due anni fa 500.000 di chilometri quadrati, anche se sono ancora malmessi e seguiteranno probabilmente a essere in pericolo. E allora, esagerante, perché addirittura non vi sono sintomi di un'accelerazione del riscaldamento del pianeta, anzi negli ultimi 10 anni sta avvenendo il contrario, ossia il surriscaldamento del pianeta è in frenata, non perché consumiamo meno anidride carbonica, senz'altro ne consumiamo di più, ma perché alcuni eventi naturali ci danno una mano, come il sole, questa North Atlantic Oscillation, Arctic Oscillation, Pacific. Colonnello, allora appena ti rimetti col tuo piede andiamo a trovare gli orsi polari, sentiamo anche la loro opinione. Per quello che dire, siamo un po' più ottimisti, dai, crediamo anche nella capacità della Terra di darci una mano a tirarci fuori. Nonostante i mali che gli facciamo. Grazie colonnello Giuliacci, grazie, sono un po' di corsa. Perdonatemi. Un salutone e mi farò trovare più in piedi la prossima volta. La prossima volta, grazie colonnello. C'è Valeria Della Valle, la nostra linguista della sapienza di Roma. Valeria, io ti volevo chiedere, questa storia dei respingimenti, si è parlato molto di respingimenti, che forse è un termine che è venuto più fuori in questi giorni, che non è che proprio lo pratichiamo tantissimo. È una parola di cui molti mi hanno chiesto se è una parola nuova. No, non è una parola nuova, però vedi che le parole hanno sempre davvero un senso. Con questo nuovo significato non è ancora registrata nei dizionari della lingua italiana, e nei vecchi dizionari voleva dire solo l'atto del respingere o addirittura il rinvio di una lettera al mittente, così la usava per esempio Carducci. Ora però il verbo, caso strano, è stato usato respingimento, andando a prendere, quindi non allontanamento oppure come tu hai detto poco fa rimpatrio, ma proprio il verbo respingere. Se andiamo a cercare il significato reale del verbo respingere troviamo: ricacciare specialmente con violenza, allontanare con timore, fastidio, disprezzo. E allora vedi, non dobbiamo andare tanto lontano, io ovviamente mi limito sempre solo all'esame delle parole. Il fatto che sia stata usata respingimento e non un'altra parola, non e che ora si vada tecnicizzando in questa maniera, mi sembra indicativo un po' di quello che si diceva e che diceva anche Antonio Scurati. Grazie Valeria Della Valle, grazie infinite per la tua velocità di pensiero e di parola. Intanto io, mentre chiedo, sto per chiedere proprio 30 secondi Antonio Scurati di chiusura, però ringrazio chi ha permesso la messa in onda qui da Torino, dalla Fiera Internazionale del Libro, che sono Filippo Oreggi e Davide Ciocia, da Milano Giacomo Spunta e l'assistenza in regia con le vostre telefonate, le telefonate agli ospiti, Gigi Borghi. Antonio Scurati, vuoi chiudere? C'è una riflessione che vuoi fare in chiusura in 30 secondi? Lapidaria, vorrei dire che la fine del mondo è una cosa seria. Uno dei nostri problemi è che noi non prendiamo più sul serio nemmeno la fine del mondo. Tutte le grandi culture che sono apparse sulla Terra hanno avuto una visione cosmologica e una idea molto precisa e scatologica, cioè della fine dei tempi. Pensiamo al cristianesimo, no? Era attesa la fine dei tempi, perché sarebbe cominciato, avrebbero squillato le trombe nella valle di Giosefa. Questo sarà il 2011 o 12, non mi ricordo. Ma ci credevano, aspettavano la vita dopo la morte. Il comunismo annunciava la fine dei tempi con la maturazione della storia, la rivoluzione. E noi, come dire, non prendiamo più sul serio nemmeno la fine del mondo. Chissà se davvero ha ragione Giuliacci, che va tutto bene nel pianeta, o la comunità scientifica internazionale, che dà un serio allarme riguardo al surriscaldamento ambientale. Potrebbe arrivare sta fine del mondo e noi ne abbiamo avuta annunciata una al giorno e non la prenderemo più sul serio. Confonderemo la demagogia dei nostri meschini piccoli politicanti con il monito degli scienziati che ci dicevano di stare in guardia. Io direi, crediamoci, prendiamola sul serio. Però intanto saluto Antonio Scurati e da Roberto Roberta Giordano. Appuntamento, non credo che la fine del mondo ci sarà per il prossimo sabato, quindi di nuovo qui alle 14 con Non ci sono più le mezze stagioni. Non è detto. Oh, vedremo, incrociamo le dita.